La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qui a parlare di cinema come ogni sabato a quest'ora. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La rosa purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Appuntamento dedicato alle uscite in sala di questa settimana, dedicato però anche a un festival che è proprio in atto a Milano, il Piccolo Grande Cinema, dedicato al cinema per bambini e per ragazzi, dedicato anche al grande musical, al ritorno di Evita, che arriva appunto sui palcoscenici a Milano con Malika Ayan protagonista, e avremo anche però il regista di quello che per me è veramente un po' il film della settimana, Sette minuti di Michele Placido. Parleremo con Michele Placido, insomma tanta carne al fuoco, è il momento subito di cominciare partendo proprio da quello che è il best seller che questa settimana è arrivato nelle sale cinematografiche. Stiamo parlando di La ragazza del treno di Tate Taylor con Emily Blunt protagonista, alle spalle dicevo appunto un best seller, quello di Paula Hawkins, venduto e stravenduto in tutto il mondo, che diventa adesso film. Guardavo spesso quella coppia perfetta, erano l'incarnazione del vero amore. Ho voglia di cominciare una vita nuova. Io l'ho vista. L'ho vista dal treno. Sì, era con un uomo. Mi può dire dove si trovava venerdì sera? Sono andata a trovare mio marito. Vuol dire suo ex marito. Rachel sta lontana dalla mia famiglia. Non sono più la ragazza di una volta. Perché è qui? Perché ho molta paura di me stessa. I toni drammatici della clip che vi abbiamo fatto ascoltare, che introducono un pochino questo film, La ragazza del treno, la storia di una donna, Rachel, divorziata ma ancora innamorata, alcolizzata, in questi suoi spostamenti in treno dal finestrino guarda la vita che la circonda, vede una coppia di giovani che si amano e si immedesima in questa donna, tanto da confondere i confini della realtà con quelli della fantasia. E questo viaggio, diciamo, onirico è un po' l'essenza di questo film. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. La premessa la facciamo sempre, Boris: se ti è piaciuto il libro non è detto che tu debba andare al cinema pensando al libro. Il film è il film ed è un'altra cosa. Ciò detto, è chiaro che questo film è importante come film, come uscita, perché il successo del libro è stato strepitoso. Cosa rimane e soprattutto cosa rimane del film? Beh, rimane allo stesso tempo troppo nella struttura, troppo poco della potenza narrativa del libro. È vero che non bisogna fare il confronto col libro, ma forse in questo caso quel successo, quel bestseller è davvero troppo ingombrante, perché Paula Hawkins ha scritto davvero un libro di spessore imponente e allo stesso tempo un turn page di quelli clamorosi, quindi proprio di quei libri che tu leggi in treno e che da cui non riesci a staccarti, quelli che leggi magari in poche ore o in un paio di viaggi. E il problema è che portandolo sul grande schermo tutto questo si perde, perché tutto questo viene caricato da musiche invadenti, viene caricato da una recitazione troppo enfatica che purtroppo nel doppiaggio italiano secondo me diventa ancora più invasiva e invadente, e si perde soprattutto una struttura narrativa che era una sorta di struttura fatta con un mix di tempi diversi, con un salto nella mente di tre donne, con tutta una serie di artifici che sulle pagine funzionano e che, se portate troppo fedelmente sul grande schermo, risultano artificiose, risultano mai spontanee e sicuramente non fluide. In più Tate Taylor, nella migliore delle ipotesi, porta avanti una regia diligente, in altre un po' sciatta, e si appoggia sulla prova delle attrici e in particolare di Emily Blunt, che è bravissima, è vero, si imbruttisce, è vero, ma forse fa come tutto il resto del film, cioè non fa il passo in più per dare lo spessore definitivo alla sua performance, rimane in sicurezza, rimane un po' indietro e non riesce forse a dare fondo a tutto il suo talento. Ecco, mi sembra un'occasione sprecata la ragazza del treno, indipendentemente dal libro, anche se è impossibile non fare il confronto. Sono qui perché mi sono svegliata ricoperta di sangue e avevo lividi su tutto il braccio e succede quando cado e qualcuno mi aiuta a rialzarmi. Mio marito di solito mi diceva quello che avevo fatto la sera prima e ho imparato che quando ti svegli in quel modo dici solo mi dispiace. Dici che ti dispiace per quello che hai fatto, che ti dispiace di essere così e che non lo farei più. Però lo fai ancora. E allora questa è La ragazza del treno, il film da cui siamo partiti e che è partito a sua volta comunque abbastanza bene nelle sale, primo giorno di programmazione, secondo posto dietro Doctor Strange, questo comunque a sottolineare un'attesa da parte del pubblico per questa pellicola. Se la cava ancora bene in Guerra per amore di Piff, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, come dicevo conduce sempre Doctor Strange, che è stato anche il film campione di incassi della scorsa settimana, non solo dello scorso weekend ma di tutta la settimana, davanti a Inferno di Ron Howard, che peraltro ha già raggiunto e superato i 10 milioni di euro di incasso globale, collocandosi già in alto nelle zone della classifica. Inferno, che negli Stati Uniti è partito così, secondo posto, 15 milioni di dollari, che per una new entry negli Stati Uniti non sono tantissimi, tanto che appunto al primo posto c'è Boo, A Midia Halloween, un film horror di Tyler Perry, quindi come dire il genere supera il blockbuster come appunto Inferno. Questa è la situazione delle classifiche, adesso linea la viabilità, fra poco torniamo, ci sarà con noi Michele Placido a raccontarci 7 minuti. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta La Rosa Purpurea. In questa seconda parte della Rosa Purpurea affrontiamo il tema del lavoro, che è così predominante nella programmazione cinematografica di questo weekend. Lo è con ben due film italiani, uno è 7 minuti di Michele Placido, l'altro è In bici senza sella, di cui parleremo fra poco. Concentriamoci però sul film di Michele Placido, un film importante, necessario, che racconta una storia così presente, così drammaticamente presente nel mondo delle relazioni del lavoro del nostro paese, quella di un gruppo di donne operaie di una fabbrica tessile che si trovano di fronte a una scelta che apparentemente sembra marginale, quella di rinunciare ai famosi 7 minuti del titolo di una pausa tra un turno e l'altro per poter salvare il posto di lavoro, ma che poi così marginale non è. Stavo a pensare una cosa: se rinunciamo a sti 7 minuti, a che dovremmo rinunciare di più? All'assicurazione? A un mese di protezione? Voi ricordate che è successo in quella fabbrica al nord ad agosto? È andata a fuoco un intero capannone. Ci sono morti dentro 3 operai, 3 padri di famiglia. I proprietari avevano deciso di vantaglio al personale dei gruppi antincendio. Pure là il consiglio di fabbrica aveva votato. Voto favorevole, solo per risparmiare. È perfetta questa analisi, introduce perfettamente il film, questa clip. Michele Placido ci porta dentro una storia, quella di una fabbrica tessile appunto. Tra l'altro il film prende le mosse da una pièce teatrale ispirata a sua volta a fatti realmente accaduti in una fabbrica francese nel 2012. Ma quante fabbriche abbiamo sentito, no? Alle prese con questo tipo di problema. La storica gestione italiana cambia, arriva un nuovo proprietario, in questo caso francese, una grossa impresa internazionale, e dice sì, salveremo la fabbrica, salveremo tutti i 300 posti di lavoro, ma ci servono questi 7 minuti per aumentare la produttività. A rappresentare le lavoratrici nella sede sindacale viene chiamata la più anziana e rappresentativa di loro, interpretata da una straordinaria Ottavia Piccolo, che però ha anche quella coscienza critica che le permette di capire che questi 7 minuti non sono solo i 7 minuti, ma sono qualcosa di più, e di seminare il germe della, non tanto della ribellione quanto della riflessione all'interno delle sue colleghe più giovani, fra le quali Ambra Angiolini, ruolo fantastico, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, sorprendente, Maria Nazionale, Violante Placido, insomma un cast al femminile davvero molto importante. È un film che si svolge con gli stilemi e i ritmi un po' del primo Ken Loach, di quello un po' più pressante, ma anche del Laurent Canté, che ha raccontato il mondo del lavoro e tutte le sue contraddizioni, In tanti film degli anni 2000 si sente la matrice teatrale di Stefano Massini, anche se appunto stemperata dalla presenza della fabbrica, da questo corpo monolitico che doveva essere il mondo in cui si realizzavano i propri sogni attraverso il lavoro, ed è diventato spesso un mondo da incubo. E allora noi chiediamo proprio a Michele Placido, che abbiamo incontrato, di raccontarci un po' questo ritorno al mondo del lavoro, un mondo del lavoro che sembrava un po' sparito dai radar del cinema italiano dopo l'ondata dei call center di una decina di anni fa. Sembrava non ci fosse più un tema lavoro da affrontare, invece Michele Placido ha tirato fuori questo film da una pièce teatrale che sembra di sconvolgente attualità. Guarda, ha sorpreso anche me quando la proposta di Massini, il direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano, mi ha dato il testo. Io non ho voluto vedere la pièce teatrale, spesso vado in quella direzione, cioè di non meno so meglio è, lo voglio scoprire io cosa sarà poi alla fine il tema di un film. Ma soprattutto quando ho visto che ho pregato la produzione attraverso Federica Vincenti di far conoscere, di trovare dei partner europei, e immediatamente sia la Francia che la Svizzera e la Spagna hanno risposto all'appello, allora ho detto: caspita, ci troviamo di fronte a un fatto che può veramente parlare dell'Europa e dell'Italia di oggi su un tema che è quello che è il lavoro, ma che non è soltanto una questione né politica né ideologica, e di come sono cambiate le cose, i fatti, in un'Europa in crisi, in cui se tutto questo poi viene raccontato soprattutto attraverso 11 donne, non 11 uomini, il fatto può diventare emotivamente un fatto molto appassionante, molto emotivo, molto cinematografico. Cioè io trovo che questa storia è molto filmica, perché lo spettatore entra nella storia ed entra partecipe e si siede al tavolo della trattativa di questi 7 minuti che una multinazionale pone come offerta a queste 11 donne per continuare il loro lavoro nella loro fabbrica, come condizione anzi. Parafrasando Ozon, 8 donne è un mistero, qui potremmo dire 11 donne è un lavoro. Perché le donne, cioè cosa ti davano di più a livello anche drammaturgico e di storia e di racconto? Beh, ero convinto che il fatto che le donne vengono messe sempre in secondo piano nelle storie cinematografiche, soprattutto nel nostro paese, come hai appena accennato, e che per una volta si potessero sentire protagoniste proprio come personaggi, come prendendo il posto riservato in genere agli uomini. Ero convinto che ci sarebbe stato fra di loro una tensione, una battaglia molto, cioè fra di loro coinvolgersi e anche darsi, come dire, fare una gara di partecipazione emotiva e passionale, e non mi sono sbagliato. Penso, credo, come qualcuno ha detto già in anteprima, e me lo posso permettere di dire al pubblico che ascolta, che mi ascolta, che forse è uno dei film, da un punto di vista di direzione di attori, forse è il più riuscito. Ecco, 7 minuti, no? 7 minuti per un ricatto, potremmo dire, perché tutti noi ci stiamo facendo scivolare addosso i 7 minuti alla volta che ci stanno togliendo per precarizzarci sostanzialmente. E stavolta 7 minuti, qualcuno dice: beh, ma insomma 7 minuti, salviamo il lavoro, salviamo le nostre famiglie, eccetera. Perché è importante in questo senso parlare al plurale e non pensare al proprio interesse personale? Al proprio tornaconto personale. Probabilmente perché in questi anni ci sono sfuggite tante occasioni di partecipazione collettiva a fatti che riguardavano tutti, non solo il proprio rione, la propria strada, il proprio condominio, ma la comunità italiana intera. E questa offerta così ambigua che arriva, che sembra risolvere i problemi, come tante volte la politica, non solo italiana ma anche la politica della comunità europea, ha promesso di risolvere i problemi delle varie nazioni, delle varie, proprio parlando appunto di mercato, parlando di sacrifici, e sacrifici che poi hanno portato, e come vediamo adesso col problema prima della Grecia, poi dell'uscita adesso della comunità inglese dalla comunità europea, creerà dei problemi secondo me ulteriori. Tutti abbiamo creduto però in questi anni, e continuiamo a credere, a promesse che poi sono state, non voglio usare sempre ingannevoli, ma sicuramente non sono state veritiere. Continuiamo a credere che siano solo 7 minuti. Ti faccio un'ultima domanda, Michele. Nel tuo cinema tu hai una impronta registica molto forte, molto riconoscibile. Questo tema, per esempio, in Francia un regista come Laurent Canté è un tema che ha sempre snocciolato, maneggiato. Hai cambiato qualcosa del tuo approccio registico per raccontare questa storia di lavoro? Sei tornato, diciamo, agli stilemi di Pumarò, per intenderci? Beh, direi però che ho messo forse più a servizio una tecnica cinematografica legata, per quanto possa essere assurdo, al romanzo criminale o a Valanzasca. Cioè, col mio direttore della fotografia, Arnaldo Catinari, abbiamo usato per questa storia piuttosto di uno stile autoriale, uno stile molto usando 3 macchine da presa, insomma, per fare degli esempi che in genere vengono usati nei film d'azione, molta macchina a mano e 3 macchine da presa alla volta. Cioè, i piani di ascolto erano sempre contemporanei ai piani di recitazione di uno dei personaggi, e le macchine giravano, le altre due erano a servizio sui primissimi piani delle altre attrici. Abbiamo girato come se fosse un film d'azione. Io vorrei capire perché, visto che ci tocca decidere, non ci stiamo pure noi di là, quei 3 pinguini. Ma che fanno, te fidi dei bianchi? Tanto so 3 ore sta là dentro. E so 3 ore, sì, non ci capisce un cazzo dei francesi. Guarda, la prossima volta ci vai te, che sei una signora. Oh, mamma mia, sto scherzando. Certo che voi impiegate proprio non le capite le battute, eh? Prova a dire roba meno stupida e vedi che capisca anch'io. Eh no, c'è una bella differenza tra impiegate e operaie. Ancora questa storia, te, eh? Operaie, impiegate. Ma qual è sta differenza? No, me lo devi spiegare. Poi, guarda, oggi proprio non è aria, eh. Perché a me mi pare che siamo tutti nella stessa barca qua. Un altro dei passaggi straordinari di 7 minuti, perché poi le crisi dividono anche, oltretutto, oltre a mettere queste impiegate, queste operaie nelle condizioni in cui si trovano. Film davvero notevole, di grande intensità, con una bella regia, quello di Michele Placido, come avete sentito, girato molto camera a mano, con i ritmi e gli stilemi quasi del thriller psicologico. 7 minuti nei cinema italiani. Fra poco parleremo invece di chi quei diritti sogna di conquistarli forse un giorno. Allora, a questo punto noi concentriamoci sul DVD game, perché è il momento di cominciare a giocare con il nostro film misterioso. È matto! Sì, lo so, è la sua moltezza. Per questo lui è così... lui. Ma è più oscuro all'aspetto e meno più matto. Non ride più soddisfatto. Beh, insomma, è come se avessimo detto già titolo, regia e interpreti, con parole d'ordine, parole chiave di questo straordinario film tratto da un'opera senza tempo. Se l'avete già indovinato, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro indirizzo per provare a vincere una delle 2 copie in Blu-ray che sveleremo alla fine della puntata, ma che vi faremo ascoltare ancora più tardi. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali, verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca, da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. La Rosa Purpurea. E allora, terza parte della Rosa Purpurea, per parlare ancora in questo weekend quasi tematico, perché il cinema a volte incrocia i suoi destini in questa maniera, per parlare ancora del tema del lavoro in Italia. 7 minuti di Michele Placido affronta il tema di chi il lavoro ce l'ha e rischia di perderlo, rischia di veder sgretolare pian pianino i suoi diritti. E invece un altro film che esce curiosamente questa settimana è In bici senza sella, e racconta una generazione che il lavoro invece quasi lo agogna, quasi lo sogna, quei diritti teme di non conquistarli quasi mai. Questo fisso? Lo stipendio tutti i mesi. Le ferie pagate. La pensione. La pensione? La pensione come è fatta? Io per un posto fisso sarei disposta a tutto. Questa azienda è giovane. Io sono giovane. Io adesso sono giovane. Qui siamo tutti un po' copy, un po' art, un po' account. Senti, io non so come dirtelo, ma ti devo licenziare. Le faremo sapere. Le faremo sapere, è una delle cose che soprattutto i giovani si sentono sempre più dire. Boris, questa liaison tematica curiosa di questo weekend italiano, tra l'altro un weekend ricco di cinema italiano, un po' di tutti i tipi, ci porta chiaramente a mettere insieme le generazioni raccontate da 7 minuti con questa di Imbici senza sella. Le faremo sapere il posto fisso come qualcosa che ci hanno detto che in fondo bisogna abituarsi a non avere più, e alla fine i conti con la vita e con i propri sogni e con le proprie ambizioni come si fanno? Beh, sembra passato una vita da Santa Maradona, in cui c'erano due giovani, Libero De Rienzo e Stefano Accorsi, che fuggivano il mondo del lavoro, che volevano rimanere eterni ragazzi. Adesso è il contrario, se in 7 minuti si racconta cosa saremmo disposti a fare e cosa non saremmo disposti a fare per mantenere il posto di lavoro, In bici senza sella, che è una metafora fin troppo evidente, tanto da non dover essere spiegata, è quello che saremmo disposti a fare, come abbiamo sentito nel trailer, per trovarlo un posto di lavoro, non necessariamente fisso, ma possibilmente fisso. L'intuizione, secondo me, geniale di In bici senza sella è farne un film a episodi, perché quello che è la precarietà giovanile in questo paese è una serie di episodi grotteschi che fanno piangere chi li vive e ridere chi li sente raccontare. E loro intuiscono questa forza narrativa enorme di questa tragedia sociale collettiva e la riportano all'interno di un film a episodi, molto ben pensato, anche molto ben scritto, molto citazionista. Ci troverete dai Monty Python a Indiana Jones, al Sacro Graal, che addirittura dà il titolo a uno degli episodi in cui ci si pone la domanda drammatica: nel caso in cui troverò la vita eterna, vorrà dire che dovrò cercare lavoro per l'eternità? Ed è effettivamente una domanda esistenziale drammatica, tragicomica. E questo film, patrocinato tra virgolette da Colin Firth, riesce a centrare il suo obiettivo, riesce a restituire la difficoltà di vivere di chi è costretto ad essere giovane in questi anni e di chi è costretto ad esserlo in Italia. Forse cinematograficamente non riesce a centrare pienamente l'obiettivo, perché le intenzioni sono meglio delle intuizioni e ci si appoggia troppo a un cinema già visto, già raccontato, ci si appoggia troppo al genere per trovare la metafora, insomma un po' lo stesso artificio che ha portato al titolo. Quindi bravi, forse avete ottenuto un co-co-co per un prossimo film, però per dimostrare di essere registi a tempo indeterminato, secondo me serve un altro esame. Quindi vi faremo sapere. Vi faremo sapere, ma intanto andiamo avanti con le proposte al cinema. Fra poco parleremo di cinema per bambini e per ragazzi con il festival Piccolo Grande Cinema. Quello che rischia di passare come un film per bambini, perché è un film d'animazione, ma invece è tutt'altro, è Sausage Party. Metto in fuori, ragazzi! Sì, ci ha scelti! Sì, sì! Ah! Ci hanno scelti insieme! Ah, è magnifico! E insieme possiamo combattere questi mostri e riprendere il controllo delle nostre vite! Lascia stare la mia salsiccia, puttanella! Hanno ucciso Kato! Ha sofferto! Oh, sì, certo, sì, ecco! E allora, questa è la clip. Il film entra in un territorio molto frequentato negli ultimi tempi, anche proprio recentemente, da Pets, che è ancora nelle sale, aveva cominciato la strada a Toy Story. Cioè, cosa succede alle cose che noi riteniamo, giustamente, inanimate nel momento in cui l'uomo, diciamo così, non c'entra più? Lì erano i giocattoli e i soldatini in Toy Story, stavolta in Pets erano gli animali da compagnia di casa, in Sausage Party sono i prodotti del supermercato. Una colonia di prodotti di supermercato vuole capire e scoprire la verità su ciò che accade quando vengono scelti e lasciano il negozio di alimentari, a comandarli, a capitanarli una salsiccia in crisi esistenziale. Boris, gli estremi, dicevamo, sembrano quelli di un film sembrano quelli di un film per i più piccoli, e invece qui c'è una lettura che è sicuramente per un pubblico più adulto. No, No, assolutamente sì, non sono un censore, non sono un moralista, ma io i miei nipoti o i miei figli non ce li porterei, lo dico subito. Questo perché la vita segreta di una salsiccia potrebbe dare adito a un doppio senso. Ecco, non c'è il doppio senso, c'è solo un senso ed è quello che pensate quando usate la metafora della salsiccia. Questo non posso dire in una fascia protetta. Il problema del film è un po' quello che dicevamo per In bici senza sella: intuizioni, intenzioni e metafore non viaggiano sempre parallele, e questo forse è il problema del film, che riesce ad essere dissacrante ai massimi livelli, non sempre è riuscito nel ritmo e nella potenza che questo può restituire al film. Detto questo, però, Sausage Party è geniale per quello che lascia intravedere, nel senso che è un film per adulti in tutti i sensi. La salsiccia aspira ad essere libera, ad essere libertina, sogna un'orgia, perché questo è di fatto quello che sogna, immagina un grande oltre in cui potrà divertirsi dopo essere comprata, è una chiara critica al consumismo. Questo sembra quasi meriano, no? Nel usare il supermercato come metafora di un esercito di ultimi che sono dei consumisti sfrenati, e allo stesso tempo riesce a portare anche il dibattito politico americano al centro del film, perché tenetevi forte, una delle protagoniste è una lavanda vaginale, chiaramente repubblicana, mentre la salsiccia è democratica. So che sembra il riadattamento di destra a sinistra di Gabber, ma è proprio così. E in tutto questo è chiaramente un film per adulti, perché gli adulti possono andare oltre la qualità cinematografica e godere della comicità politica e di genere e anche sessuale che c'è nello sfondo e anche al centro di Sausage Party. I bambini non potrebbero capirlo, cioè i bambini rischiano realmente di annoiarsi. È molto strano, perché chiaramente si usa l'animazione per escludere il target più facilmente proponibile per questo tipo di film. Va sicuramente visto, secondo me, perché è comunque un esperimento coraggioso, è comunque un esperimento dissacrante, e ne abbiamo pochi di esempi di questo tipo. Poteva essere fatto meglio, questo bisogna dirlo. E allora, Sausage Party per adulti, diciamo così. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, dopo tutto quello che c'è da vedere, insomma il meglio di quello che c'è da vedere in sala, nei cinema, noi torniamo a giocare insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ti conosciamo? Sì. Oh, meglio no, ovvero non ancora. Uffo, sento di conoscerti. Beh, ci siamo già visti quando ero più giovane. Oh, mi dispiace, ma non ricordo. Questo è perché ancora non è successo. E quando succederà? Succederà tra anni, quando sarai più vecchio. Salve. Ti vedrò quando sarai più giovane e io più vecchio. E allora, diteci di che film si tratta. L'indirizzo del nostro gioco è sempre il solito: la rosa purpurea, @radio24.it. Titolo del film, vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film che sveleremo fra pochi minuti alla fine della trasmissione. E allora andiamo avanti con un festival stavolta, con un festival che ha aperto i battenti proprio in queste ore a Milano per la nona edizione, un festival che anno per anno si è creato un suo pubblico e sta diventando sempre più importante, che grazie alla collaborazione con Castellinaria, il Festival di Bellinzona, che nel campo del cinema per ragazzi è sicuramente una grande istituzione. Stiamo parlando di Piccolo Grande Cinema a Milano, nelle sedi della Cineteca, al Museo Interattivo del Cinema in Valle Fulvio Testi, ma anche allo Spazio Oberdan in Porta Venezia, nel pieno centro di Milano. Insomma, una situazione bella e raggiungibile per tutti i tipi di ragazzi, fatemi dire, dai bambini di 5 anni agli adolescenti inoltrati. E allora di questo vogliamo parlare con la direttrice artistica di questa manifestazione, Silvia Pareti, che è in collegamento con noi. Ciao Silvia. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Ben trovata alla Rosa Purpure. Allora, parliamo un po' di questo Piccolo Grande Cinema, un festival, dicevo, che è arrivato alla nona edizione, che ha trovato, sta trovando anno per anno una sua collocazione, perché è fondamentale. Noi da questa emittente e soprattutto da questo programma lo diciamo da anni, è fondamentale che l'educazione all'esperienza del cinema avvenga sin da bambini. Sì, assolutamente, quindi su questo siamo perfettamente in sintonia. Questi anni il festival è cresciuto, come dicevi tu, cerchiamo di offrire contenuti, film, eventi un po' per tutte le età, perché riteniamo che ci si debba anche un po' abituare a vedere i film in sala, a vivere tutti insieme l'esperienza di un film. Dici un attimo, per esempio, un paio di titoli di cui vai particolarmente orgogliosa, uno per i bambini più piccoli e uno magari per quelli più grandi. Allora, guarda, per i più parto dai più grandi, sarebbero tanti, siamo orgogliosi di tante cose, però vi segnalo questo film che è La mia rivoluzione, Ma Revolution, che sarà in programma il 12 novembre, che è una bellissima opera prima franco-tunisina, che racconta in modo anche ironico, con una leggerezza e ironia che ci ricorda Truffaut, il cinema di Truffaut, la consapevolezza, la presa di coscienza di questo ragazzo di seconda generazione tunisino che vive in Francia, un po' delle problematiche sociali, del momento storico in cui vive, un film di crescita, però che racconta tante cose anche sulla società di oggi. Per quanto riguarda invece i più piccoli, sono anche qui tanti. Vi segnalo Palle di Neve, che è questo film di animazione canadese che invece uscirà poi al cinema con Notorious Pictures. È una divertentissima storia di bande di ragazzini che si sfidano appunto a palle di neve, con una colonna sonora molto accattivante e uno stile di animazione molto originale, di qualità sicuramente. Assolutamente, ecco, anche perché mi riferisco soprattutto al primo titolo che hai detto, è importante per i ragazzi vedere cinema sin dalla più tenera età, sin dall'infanzia e dall'adolescenza, anche per confrontarsi con altri mondi, anche per capire cos'è la loro età in altri posti del mondo. E questo è fondamentale, perché questo la televisione lo assolve sempre meno, anzi direi che non lo assolve praticamente più in orari possibili per i più piccoli, e quindi è il cinema che ha questo grande ruolo e questa grande capacità di portarti in giro per il mondo e dirti: guarda cos'è un bambino di 6 anni in Afghanistan piuttosto che un ragazzo adolescente di origini nordafricane in Francia. Questa apertura alla realtà è davvero una cosa che il cinema riesce ancora a regalarti. Silvia, per chiudere, l'appuntamento a Milano, Oberdan e Mick fino al 13 novembre, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti, e anche con tanti eventi, come dicevi tu. Per informarsi c'è il sito internet completissimo Piccolo Grande Cinema. Grazie per essere stata con noi e buon festival. Grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie. E a questo punto linea alla viabilità, fra poco torniamo e parliamo del ritorno di un grande musical dal vivo e vita, che diede vita anche a un film memorabile con Madonna e Antonio Banderas. Torna il musical, protagonista Malika Ayane, fra poco qui alla Rosa Purpurea. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Rosa Purpurea. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Così cantò Madonna nel, penso, 1996, se non ricordo male, l'anno del musical Evita, cinematografico, con Antonio Banderas, che riprendeva questo super classico del musical internazionale firmato da Andrew Lloyd Webber e lo portava sul grande schermo, come dire, consegnandolo un po' alla popolarità mondiale. Non che l'opera non fosse già popolare di suo, lo era già dagli anni Ottanta, già dalla sua nascita, anche grazie alle interpretazioni di personaggi straordinari del musical. Mi viene in mente Patti LuPone, tanto per dare il nome di una grande protagonista di questa arte. E adesso Evita torna, è tornato nei nostri teatri ancora in questo weekend, una serie di anteprime a Bari e poi dal 9 di novembre fino al 27 Teatro della Luna di Assago vicino Milano, per cominciare poi un tour che la porterà a Genova, a Firenze e a Roma e infine a Trieste. Come si può fare un Evita nuovo nuovo? Beh, certo, prendendo per esempio Malika Ayane come protagonista nei panni che furono appunto di Madonna, e poi quanto rimane imbrigliato dell'opera originale e anche del film. Lo chiediamo al regista Massimo Romeo Piparo. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Hai nominato uno dei film a me più cari, sia in quanto appassionato di musical, ma soprattutto appassionato di cinema, perché comunque trovo che la pellicola firmata da Alan Parker fosse a dir poco perfetta nella sua ricostruzione, nella sua enfasi che con le immagini accompagnava ogni nota di una partitura perfetta firmata da Weber. Riproporre Vita oggi in teatro, posso dire che la cosa che guadagna come sempre è il fatto che sia dal vivo, quell'empatia che si crea tra spettatore e narrazione di un'opera interamente suonata, cantata dal vivo, non ci sono recitati, è tutto musica, ovviamente nel live guadagna tantissimo. Quest'anno io, insieme al film, celebro 20 anni dalla prima volta che lo feci in Italia, era il 96 pure per me, uscì in contemporanea col film, con una versione tutta in inglese, cantata dal vivo, l'ho rifatto 10 anni dopo nel 2006, sempre in inglese. La novità di quest'anno, per rendere anche Vita ancora più accattivante, è aver tradotto di mio pugno 27 canzoni dell'opera e farlo tutto in italiano. Ecco, tutto in italiano, come si fa, diciamo, a non perdere, a non lasciare per strada quel sapore che Weber aveva messo anche in quei testi? Con che tipo di traduzione, che tipo di approccio hai avuto al testo? Ma guarda, io non avrei mai fatto 20 anni fa una traduzione di un'opera così importante. Dopo 22 anni di mestiere, di insomma esercizio con titoli classici, da My Fair Lady a Tutti insieme appassionatamente, Sette spose per sette frate, insomma ne ho tradotti La febbre del sabato sera, insomma ne ho fatti diversi. Billy Elliot è stato l'ultimo, grande fatica, che insomma dopo che Tim Rice e Elton John mi hanno dato la loro approvazione, insomma ho capito che la lingua italiana su certe strutture musicali operistiche, come nel caso di Evita, suona come, se non addirittura meglio, dell'inglese. Cosa diversa è quando si affronta il rock. In questo caso, per esempio, ci sono dei pezzi a matrice, a carattere fortemente rock, e ovviamente il rock canta in inglese, cioè l'inglese con i suoi monosillabi, con le sue parole tronche, riesce a essere molto più graffiante della morbida e rotonda lingua italiana. Evita invece ci permette questo mix di sinfonico, questi sapori un po' alla Mascagni, questo retrogusto di Puccini. Insomma, Weber ha attinto molto al panorama del melodramma italiano, e quindi devo dire che il risultato ha sorpreso me per primo, perché da grande conoscitore dell'opera in inglese, insomma conosco ogni nota del pentagramma e ogni parola, anch'io non avrei mai immaginato che in italiano potesse cantare così bene. Devo dire che porgiamo la storia allo spettatore dal primo all'ultimo minuto dello spettacolo, portandolo dentro un racconto che è fascinosissimo, cioè la storia di Eva Peron, tra romanzo e vita reale, un racconto esaltante. Quindi insomma c'è romanticismo, c'è sofferenza, c'è sorriso, c'è allegria, c'è dubbio, insomma l'italiano in questo senso aiuta moltissimo. E c'è Malika Ayane, in un aggettivo, Massimo, che Vita è Malika Ayane? Superlativa, sorprendente, ne uso due, perché che fosse una bravissima cantante lo sapevamo, l'ho cercata apposta, tra tutte le interpreti attuali del panorama femminile della musica leggera italiana, sicuramente Malika è quella che quando apre bocca e pronuncia una nota, tu capisci subito, pure se stai guidando in macchina, se sei in aereo, capisci che la voce è di Malika Ayane. Quindi un artista che ha una personalità così forte, un timbro così originale, unico, ovviamente in teatro ti dà quella marcia in più. Grazie a Massimo Romeo Piparo, al Teatro della Luna di Milano dal 9 novembre e fino al 6 novembre al Teatro Team di Bari c'è Evita il musical. Grazie Massimo. Grazie a voi. E da Evita passiamo al cinema da vedere in casa, al DVD game della scorsa settimana, alla soluzione e ai vincitori. È questo che cerchi tanto? Tante pene per una cosa così piccola, ma non per molto. Lei presto dimenticherà tutto di te, mio bel fanciullo. Subito, appena Gogol le darà il mio regalo, dimenticherà anche te. E allora, è stata davvero una partecipazione straordinaria al nostro game la scorsa settimana, con un film che temevo fosse un po' difficile, perché un po' indietro nel tempo, invece evidentemente Labyrinth con David Bowie è qualcosa che è rimasto molto attaccato al nostro pubblico. Avete partecipato in tanti, ma i più bravi e i primi ad indovinare sono stati Nicola Capello di Abbiategrasso, provincia di Milano, ed Elena Rui di Soave, provincia di Verona. Saranno loro a ricevere a casa la copia Blu-ray del film rieditato nelle ultime settimane, Labyrinth, che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV, Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, un grande cult, la storia di un adolescente amante dei mondi fantastici che desidera che gli gnomi rapiscano il fratellino capriccioso a cui deve fare da babysitter. Detto fatto, si ritrova al centro delle sue fantasie. Uno spettacolo infantile, gioioso, kitsch e geniale, scritto da Terry Jones di Monty Python, prodotto dall'avanguardia tecnologica di George Lucas e diretto con grandissima inventiva da Jim Henson, colui che creò i Muppets. Con una star come David Bowie a fare da villene e una giovanissima Jennifer Connelly come protagonista. Insomma, veramente un film che ha fatto l'immaginario di chi era bimbo negli anni Ottanta, e probabilmente le tante risposte ricevute al quiz lo confermano, che ora arriva in versione deluxe per il 30° anniversario con moltissimi contenuti speciali. Jennifer Connelly e la famiglia Henson che riflettono su questo film e la sua eredità, ricordi di Jim Henson e David Bowie, making of, tanto tanto altro. Devo dire che oltre al Blu-ray e la sua versione Steelbook, il film è disponibile anche in una versione Ultra HD in 4K, totalmente restaurata e rimasterizzata nel suono e nelle immagini. Beh, molto interessante anche per chi possiede appunto i nuovi schermi di ultimissima generazione. Allora, questo era Labyrinth, il nostro game della scorsa settimana. Giulio, diamo un'occhiata invece ai consigli dai palinsesti TV della prossima, spingendoci un po' in là nella settimana, arrivando a giovedì 10 novembre, quando arriva in seconda serata, 22.35, su Rai 4, The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Sì, è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Jordan Belfort, sceneggiato da Terence Winter, che è colui che ha scritto Il Soprano e che con Scorsese ha poi lavorato con Boardwalk Empire e Vinyl, ed è la storia d'ascesa e caduta di un lupo di Wall Street, un uomo accecato dal guadagno, scommesse, godimento sfrenato. È uno veramente dei culmini del cinema che racconta il periodo di crisi economica, un sistema letteralmente drogato, raccontandone uno dei colpevoli. È un film rutilante, scorso al 100% come non capitava almeno dai tempi di Casino, con un grandissimo Leonardo DiCaprio come protagonista, ed è un'opera barocca, cocainica, che sa dare veramente forma a quella eccitazione grottesca dell'accumulo, dell'assenza di morale, dell'avidità sfrenata, e al capitalismo come forma di dipendenza. Veramente un film imperdibile. Questo quindi The Wolf of Wall Street, per tutti in chiaro, Rai 4, 22.35, giovedì 10 novembre. Il giorno dopo si va molto più nel cinefilo, invece, con una proposta notturna su Rai 3 alle 2.05, Il Sarto di Ulm di Edgar Wright, passato alla storia per Aimat ovviamente, ma autore di altri film da riscoprire, come questo, Giulio. Sì, è la storia di un sarto, come dice il titolo, che sceglie di lasciare la Vienna del XVIII secolo per riuscire a realizzare il suo sogno, ovvero quello di volare con un veicolo meccanico che lui stesso ha progettato e costruito. Quello di Wright è un progetto colossale, un film costosissimo, che, come la storia che racconta, fu un grande insuccesso. Rimane un'opera di grande fascino, perfettamente capace di ricostruire un'epoca, un film di filologia maniacale, tanto che è una sorta di documento storico, se pensiamo che la macchina del sarto fu ricostruita esattamente secondo i suoi progetti, la Wright. È uno dei film a cui Wright teneva di più, la storia era una delle storie che amava di più, ma è poi uno dei film che poi ha amato di meno. Ed è il film che lo convinse ad abbandonare la forma narrativa classica per darsi alla lunghissima durata e quindi al suo capodopera che è Aimat. è un film sicuramente imperfetto, ma di grandissimo fascino da recuperare, questo Sarto di Ulm. E allora recuperatelo, il Sarto di Ulm, su Rai 3 alle 2.05 della notte di venerdì 11 novembre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come ci suggeriscono le note della nostra sigla. Prima però devo svelarvi il film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Alice attraverso lo specchio, chiaramente un film che adesso arriva nella sua versione Blu-ray, è quella che regaleremo ai primi due ascoltatori che ci hanno risposto in maniera esatta e che sveleremo la prossima settimana, quando ci ritroveremo qui alla Rosa Purpurea sabato alle 18 su Radio 24 per raccontarvi tutto il cinema che c'è.